non a te. A chi sei tu, tu non sei più qui. Ormai è finita, è finita tra di noi, ma forse un po' della mia vita è rimasta negli occhi tuoi. Se non a te, a chi? Racconterò tutti i sogni miei. Lo sai, ma hai fatto male lasciandomi solo così, ma non importa, io ti aspetterò. Se non a te, a chi? Racconterò tutti i sogni miei. Lo sai, ma hai fatto male lasciandomi solo così, ma non importa.